con Teresa e Rossana Coratella per parlare della performance La Terra dei Bruchi a Roma, alla Galleria d'Arte Moderna, mercoledì 5 giugno 2019. Ben trovate. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Buongiorno. Presentiamo questa performance, di cosa si tratta? Intanto volevo fare un piccolo accenno, un ringraziamento doveroso a Fizz Social Life che ci ha sostenuto questa iniziativa e che si occupa di promozione sociale attraverso l'arte e la cultura. Poi volevo fare un ringraziamento anche al direttore della Galleria d'Arte Moderna che ha accolto subito questa nostra iniziativa. È un grido di denuncia che io e Rossana abbiamo voluto portare attraverso un linguaggio artistico, quindi attraverso questa performance che abbiamo intitolato La Terra dei Bruchi. Volevamo anche ringraziare poi Plinio Perilli, che è un grande poeta, un critico letterario che ci ha curato e ci ha, diciamo, scritto per questa iniziativa, per questa performance. Abbiamo fatto venire da Trieste praticamente 500 crisalidi vere che domani si schiuderanno e prenderanno volo come messaggio appunto di rinascita, di trasformazione e rinascita, è una denuncia contro la terra dei fuochi, quindi per questo l'abbiamo intitolata La Terra dei Bruchi. Durante il volo di queste farfalle, mia sorella Rossana ha scritto appunto una poesia ispirandosi al romanzo del Piccolo Principe, inerente appunto a questa cosa dell'ambiente. Do anche la parola a Rossana che è qui con me. Sì, eccoci. Allora, come accennava Teresa, abbiamo pensato appunto di raccontare con un linguaggio artistico, unendo sia una performance visiva che la poesia, per raccontare una storia che poi è una storia che riguarda tutti ed è purtroppo una piaga del nostro territorio italiano, che è quello della Terra dei Fuochi. Io ho cercato di prendere spunto dal Piccolo Principe perché è un romanzo che mi ha colpito molto, la voce dei bambini e il cuore dei bambini credo che dovrebbe appartenere a ognuno di noi, perché è proprio con la semplicità e con l'abbandonare a volte quelle infrastrutture che noi abbiamo, che ci impediscono di essere così naturali, che si possono vincere anche le battaglie più grandi, come appunto questo volo simbolico di farfalle, che rappresenta una sorta di risveglio per una terra così lacerata come è la Terra dei Fuochi. Tutto questo in una giornata particolare, la giornata mondiale dell'ambiente. Esatto, infatti l'iniziativa è stata patrocinata dalla Lega Ambiente Lazio e dall'assessorato all'ambiente della Regione Lazio, inoltre verrà anche a farci visita Mirella Letizia, che è assessore all'ambiente di Casal di Principe, quindi tutti insieme appunto per un grido di denuncia, però anche diciamo un messaggio positivo, cioè che tutti attraverso questo volo simbolico possiamo rinascere e trasformarci e quindi abbattere queste barriere e avere una consapevolezza in più. Ci date anche dei riferimenti internet per saperne di più su questo evento, ma più in generale sulla vostra attività? Allora, il sito internet è quello proprio ufficiale della Galleria d'Arte Moderna che ci ha ospitato, infatti l'evento è stato sostenuto appunto dalla Sovrintendenza dei Beni Culturali di Roma e quindi ci sono tutte le informazioni sul sito ufficiale della Galleria d'Arte Moderna. Poi anche su Facebook comunque è stata creata una pagina intitolata appunto La Terra dei Bruchi, dove ci sono varie testate giornalistiche anche del settore tipo Exibat, oggi siamo usciti anche su Repubblica, quindi insomma diciamo che la notizia si sta girando. Ci piace condividere questa nostra iniziativa con il pubblico che avrà voglia insomma di venirci a trovare. Domani siamo attivi, diciamo dalle 10:30 alle 18, verranno anche delle scuole, abbiamo l'Istituto Comprensivo Guicciardini con il professor Liguori che porterà tutte le sezioni delle medie, poi avremo una scuola di Radispoli che verrà a farci visita appunto perché molti sono incuriositi da questa performance e quindi l'hanno presa anche come un'uscita didattica per i ragazzi. proprio per parlare dell'ambiente con una, attraverso un altro linguaggio, che è quello del latte, che ha un linguaggio universale, credo. È un evento unico o lo replicherete? Al momento è un evento unico, anche se abbiamo avuto già altre proposte, perché è piaciuto veramente tanto, anche perché poi la farfalla è un simbolo forte, un simbolo anche di decorazione, di bellezza, di rinascita, quindi abbiamo avuto delle proposte, adesso vediamo. E allora ricordiamo la performance La Terra dei Bruchi a Roma, la Galleria d'Arte Moderna, mercoledì 5 giugno 2019. Un saluto e un ringraziamento alle artiste Teresa e Rossana Coratella. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie, grazie a voi per l'invito.